Storie italiane. La piccola guardiana di oche. C'era una volta un re proprietario di una grande terra. Abbandonò sua moglie la regina e sua figlia. Nel regno viveva una bella fata che amava la principessa e aiutava sua madre a vegliare su di lei. Quando crebbe, fu promessa in sposa a un principe molto ricco. Mentre si avvicinava il momento in cui sarebbe stata data in sposa, si preparò per fare un lungo viaggio e raggiungere il suo amato sposo. La madre preparò tutti i gioielli e gli abiti regali per sua figlia. Mia cara bambina, prendi questi gioielli e pietre preziose. Sii felice con il tuo principe. Diede alla sua cameriera dei gioielli, che doveva portare con sé e consegnarli a suo amato sposo. Entrambe avevano un cavallo per affrontare il lungo viaggio. La fata regalò alla principessa un cavallo speciale. Aveva il dono della parola. Il suo nome è Falada. Aspetta, ho qualcos'altro per te. La fata prese un paio di forbici e tagliò una ciocca di capelli. Prenditi cura di te, cara bambina, perché la tua bellezza potrà essere molto utile lungo la strada. La principessa entusiasta salutò sua madre, la fata madrina, e partì con la sua cameriera e il suo magnifico cavallo Falada. Dopo molte ore di viaggio, la principessa iniziò ad avere sete e disse alla sua cameriera: per favore, puoi prendermi un po' d'acqua? Se hai sete, mia cara principessa, scendi da cavallo, siediti e bevi dell'acqua. Io non sono più la tua serva, è chiaro? La principessa scioccata scese da cavallo, si chinò sull'acqua del torrente per bere. All'improvviso la magica ciocca di capelli donata dalla fata gli disse: povera principessa, se solo tua madre lo sapesse, il suo cuore si spezzerebbe. Ma la figlia del re era umile, non disse nulla e montò di nuovo sul suo cavallo. Dopo molte ore di viaggio, ebbe ancora sete e quando arrivò vicino ad un corso d'acqua, chiese alla sua cameriera: per favore, cara, prendimi un po' d'acqua. Come ti ho detto, prenditela da sola. Di nuovo la principessa scese da cavallo, si chinò sull'acqua del torrente e iniziò a bere. La ciocca di capelli iniziò a parlare. Se solo tua madre lo sapesse, il suo cuore si spezzerebbe. La cameriera non è obbediente, ma sii prudente, principessa. Non piegarti tanto. Oh, sto cadendo nel fiume! La ciocca di capelli cadde dalla tasca e fluttuò via con l'acqua. Quindi la cameriera le disse: ora sei debole e impotente. D'ora in poi darò io gli ordini e tu dovrai obbedirmi. Ora togliti il vestito e dammelo e tu indosserai il mio. Da adesso sono io la principessa e se lo dirai a qualcuno, fidati, te ne pentirai. La cameriera indossò il vestito della principessa e montò in sella al suo cavallo, Falada. Invece la vera sposa cavalcò il cavallo della serva. Infine giunsero al palazzo reale. Il principe andò incontro alle due e prese la domestica come se fosse la sua sposa. Benvenuta nel mio palazzo, mia principessa. Sono così felice di essere qui con te. Chi è questa ragazza? Lei è la mia cameriera. È la mia compagna, ma non mi piace. Mi chiedevo, anzi, principe, se per caso hai del lavoro per lei? Beh, io non ho lavoro per lei, ma conosco un piccolo bambino di nome Carletto che si prende cura delle oche. Lei potrebbe aiutarlo. Oh, principe, ho bisogno di un altro favore. Ti prego, sbarazzati del cavallo che mi ha portato fin qui. Sono quasi caduta per strada a causa sua. In effetti, la cameriera sa che Falada, il cavallo, può parlare e potrebbe dire come si è comportata con la vera principessa. Portò in un mattatoio il povero Falada e lì fu ucciso. Ma quando la vera principessa lo seppe, pianse e pregò l'uomo di inchiodare la testa imbalsamata di Falada contro il muro del grande cancello che conduce alla città. Così passando tutti i giorni, sia al mattino che alla sera, la vera principessa poteva guardarlo. Come desideri, mia cara. Inchiodò la testa sopra il cancello. Il mattino seguente, all'alba, mentre lei e Carletto uscivano dal cancello, lei disse tristemente: «Oh, Falada, che li ha peso! Ormai te ne stai!» «Oh, principessa, che per la strada te ne vai! Se solo tua madre lo sapesse, amica mia! Il suo cuore, certo, si spezzerebbe!» La principessa uscì dalla città e portò con sé le oche. Quando arrivò nel grande prato, si sedette sulla riva e lasciò cadere le sue ciocche di capelli, che erano tutte di color argento puro. Quando Carletto le vide brillare al sole, corse pensando che fossero capelli preziosi e la povera principessa si mise a piangere. «Soffia, vento, soffia! Lascia andare il cappello di Carletto! Soffia, vento, soffia! Lascialo andare via! Oh, colline, rupi e rocce, che il vento soffi! Fino a che le ciocche argentee siano tutte pettinate e arricciate!» Si alzò un vento così forte da far volare via il cappello di Carletto. Volò via fin sopra le colline e fu costretta a seguirlo. Gli corse dietro. Quando tornò, i capelli della principessa tornarono belli come sempre, raccolti e sistemati con il suo cerchietto. Carletto, il piccolo bambino, era molto arrabbiato e imbronciato e non le rivolgeva più la parola. Osservarono le oche finché non si fece buio. La sera entrambi tornarono a casa. La stessa cosa si ripeté per due giorni e una sera Carletto andò dal vecchio re, lamentandosi. «Non posso avere quella strana ragazza accanto, perché invece di aiutarmi a tenere le oche, non fa altro che infastidirmi. Oh mio re, lo fa tutti i giorni! Mi serve il suo aiuto!» «Carletto, che cosa dici? Raccontami tutta questa storia! Dimmi, cos'è successo veramente?» Il re si fece raccontare tutta la storia e Carletto continuò a dire al re cos'era successo. Vai avanti con il tuo lavoro. Esaminerò la questione.» Quando giunse il mattino, il re si nascose dietro il cancello del palazzo e ascoltò la principessa che parlava a Falada e come la creatura le rispondeva. In seguito andò nel campo e si nascose in un cespuglio vicino al prato. E ben presto il vecchio re vide con i suoi stessi occhi come scioglieva i capelli che brillavano al sole e sentì dire: «Soffia, vento, soffia! Lascia andare il cappello di Carletto! Soffia, vento, soffia! Lascialo andare via! Oh, colline, rupi e rocce, che il vento soffi! Fino a che le ciocche argentee siano tutte pettinate e arricciate!» Molto presto si scatenò una tempesta, un vento furioso e portò via il cappello di Carletto. Il bambino corse, mentre la ragazza continuava a pettinarsi e sistemarsi i capelli. Il vecchio re vide tutto quello che stava accadendo, così tornò a casa senza farsi vedere. E quando la piccola guardiana di oche tornò a casa, il vecchio re la chiamò da parte e le chiese perché ogni giorno facesse tutto ciò, ma lei scoppiò in lacrime. «Oh mio re, non posso dirlo a nessuno, altrimenti perderò la vita!» Ma il vecchio re la implorò così tanto che non gli diede tregua, finché non gli avesse raccontato tutta la storia, dall'inizio alla fine, parola per parola. La vera principessa raccontò tutto. «Nessuno ti darà più fastidio, mia cara principessa. Sistemerò io il torto che ti ha fatto. Ora voglio che ti vesti come una vera principessa farebbe!» Quando lo fece, il re la guardò estasiato, era così bella. Quindi chiamò a sé suo figlio e gli disse che aveva accanto una falsa sposa. La principessa era semplicemente una cameriera, mentre la vera sposa era la cameriera. «Ecco, è lei la tua vera sposa, figlio mio!» «Allora devo essere molto fortunato, padre!» Il giovane principe si rallegrò quando vide la sua bellezza e sentì che era umile e paziente. E senza dire nulla alla falsa sposa, il re ordinò una grande festa per tutta la sua corte. «Stasera celebreremo la verità e puniremo la menzogna!» Lo sposo sedeva sul trono con la falsa principessa accanto. La vera principessa era seduta dall'altra parte. Ma nessuno la riconobbe perché la sua bellezza era piuttosto affascinante per i loro occhi. E lei non sembrava affatto la piccola guardiana di Oche, visto che indossava un bellissimo abito regale. Come osa venire qui? Dopo aver mangiato e bevuto, tutti erano molto allegri. Il vecchio re si alzò in piedi chiedendo la loro attenzione. Stasera, cari sudditi, vi racconterò una bella storia. Ascoltatemi attentamente. Così iniziò e raccontò tutta la storia della principessa, come se fosse stata una semplice favola per intrattenere gli ospiti. Chiese alla vera cameriera che cosa avesse fatto a chiunque si fosse comportato in quel modo. Cosa faresti ad una bugiarda del genere? Dimmi. Dunque, mio re, dovrebbe essere gettata in carcere per sempre. E così sarà fatto. E come tu hai giudicato, così sarà fatto anche a te, falsa principessa. La cameriera fu punita secondo le sue stesse parole e il giovane re si sposò con la vera principessa. Regnarono con amore, in pace e felicità per tutta la vita. La buona fata li raggiunse e riportò in vita il fedele faraone.